Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e bentornati all'ascolto della mia trasmissione. Subito la mail, un abuso al giorno, @radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del quotidiano Sole 24 Ore, di cui sono inviato. Il blog si chiama Guardie o Ladri, oppure caricando Google potete digitare nome e cognome e lo trovate immediatamente. Aspetto i vostri commenti, i vostri giudizi, le vostre proposte. È un altro modo intelligente e interessante per dialogare sui temi che a me sono cari, vale a dire diritti, legalità. Allora, io sono rimasto colpito dalla lettura di un quotidiano, del resto del Carlino, di Bologna, il 23 dicembre, che titolava Delirium Tax, tante multe sono sbagliate. L'assessore al bilancio Bottoni ammette gli errori e presenta il bilancio. Allora, avrete capito, parliamo di quelle che a volte si chiamano cartelle pazze se riguardano l'erario e il fisco nazionale, altre volte invece si chiamano vessazioni nei confronti del contribuente se arrivano e provengono dalle amministrazioni comunali. Devo dire che l'idea della puntata mi è venuta perché c'è una bella foto di un commerciante bolognese, si chiama Rigo Veronesi, che è stato multato per le iniziali sullo zerbino. Vedete, in questa foto c'è il buon commerciante che mostra lo zerbino con la faccia perplessa ed è stato multato perché le sue iniziali evidentemente lì non potevano essere messe, o meglio, potevano essere messe, ma avrebbe dovuto verosimilmente pagare una imposta o una tassa magari sulla pubblicità. Ma per capirne di più e per cercare di capire se ci troviamo di fronte ad abusi legittimi perché c'è una legge, insomma, per avere un quadro più completo, noi abbiamo in linea innanzitutto l'assessore al bilancio del Comune di Bologna, Paola Bottoni. Buongiorno e benvenuta. E abbiamo il direttore dell'ASCOM di Bologna, Associazione dei Commercianti, Giancarlo Tonelli. Buongiorno Tonelli. Buongiorno. Allora, una multa per uno zerbino, ma è possibile? Purtroppo non è l'unico caso, nel senso che qui si applica una legge nazionale, che è la cosiddetta 507, per la quale si deve pagare la pubblicità per quello che riguarda sia le insegne sia la cosiddetta pubblicità in conto terzi, e qui nasce il primo problema vero. Noi come associazione sottolineiamo il fatto che mentre siamo assolutamente d'accordo che debba essere pagata la pubblicità per l'insegna, perché è evidente che è una pubblicità da pagarsi, consideriamo la pubblicità per conto terzi una pubblicità che invece va valutata di caso in caso, come quella dello zerbino. Le cito un altro caso: ci sono stati macellai e salumieri che sono stati chiamati a pagare l'annuncio sulla vetrina pollo arrosto, oppure salumi, oppure formaggi. Quindi lei ci sta dicendo che ci sono stati dei commercianti che sono stati multati perché hanno scritto pollo arrosto o pollo allo spiedo sulla propria vetrina. Esatto. Ecco, allora, siccome la cosa mi sembra francamente paradossale, stento a crederci, anche se in realtà la foto del commerciante è lì in bella vista sul resto del Carlino, ne chiediamo conto all'assessore al bilancio. Ma com'è possibile che si arrivi a questi livelli, assessore? No, intanto non ci si arriverà e non ci si è arrivati. Bisogna dire che questa norma che prima citava Tonelli è la 507 del 93, è effettivamente arretrata rispetto al tema che vuole normare. Vuole normare l'imposizione sulla pubblicità, non stiamo parlando delle insegne, ma della pubblicità esposta dal negozio in vetrina e però è una legge fiscale, non è una legge sulla pubblicità. Il problema nasce perché dal 2004 al 2008 l'agenzia ha fatto, come prevede la norma, il censimento dei cosiddetti veicoli pubblicitari e all'atto pratico, quando si è trattato di avviare i primi avvisi, ci si è ben resi conto della complessità e della arretratezza della norma. Il fatto che vengano censite fattispecie dubbie non significa che saranno tassate e saranno multate, anzi Devo dire che l'intento dell'amministrazione, così come abbiamo, abbiamo avviato insieme alle organizzazioni dei commercianti e degli artigiani un tavolo tecnico che ha già iniziato a lavorare, l'obiettivo dell'amministrazione è invece quello di non avere contenzioso, certamente, di trovare soluzioni soddisfacenti, ovviamente nel rispetto della norma, ma superando evidenti assurdità che vengono proposte e da che una mi pare, norma così esatto, larga sul tema delle vetrine. E che mi pare che lei stessa infatti riconosca. Però io vorrei cercare di capire meglio con lei, Tonelli, se effettivamente queste multe sono arrivate o non sono arrivate, perché abbiamo sentito l'assessore Bottoni dire non si arriverà a questo. Lei stessa ovviamente lo ha detto, si rende conto di un eccesso interpretativo nella norma. Mi pare invece di capire da quello che lei ha dichiarato e da quello che leggo sul giornale che invece qualche multa è arrivata, o sbaglio, o sbagliamo noi giornalisti? Intanto occorre dare un'informazione tecnica, sì, che penso che sia importante. Ovviamente mi fanno piacere le parole dell'assessore, perché l'assessore stesso si è resa conto della impossibilità di dare un'attuazione a questa legge rispetto a quelle che sono oggi le situazioni in atto all'interno dei negozi, non solo di Bologna, ma perché questa è una legge nazionale e basterebbe, certo, fare un giro per tutta Italia per rendersi conto che la stessa cosa che si trova a Bologna si trova ovunque. Ma detto questo, il Comune di Bologna nel 2004 ha affidato tramite un bando la gestione esterna di questo servizio, e quindi in sostanza esiste una società che si chiama Gestor, che dal 2005 ha fatto il censimento delle vetrine bolognesi. Questa società ha già emesso 2300 cartelle esattoriali, all'interno delle quali se ne trovano 800 che contestano queste multe ai commercianti e agli artigiani. Bene, allora lei ha messo un punto fermo, vale a dire, sarebbero già arrivate le cartelle con 800 segnalazioni di vendite di polli allo spiedo o di zerbini che mettono le proprie, come dire, iniziali a mo' di biglietto da visita del commerciante. E allora a questo punto torniamo dalla Bottoni per capire se effettivamente questo risulta e che cosa intende fare per non arrivare a quello che lei prima diceva, vale a dire uno scontro con i commercianti che non è interesse di nessuno. No, non solamente, ma voglio dire, i dati sono quelli che dice Tonelli, sì, li abbiamo certificati anche al tavolo tecnico che già sta lavorando. Voglio dire che ci sono 800 posizioni contestabili ad oggi su 35.000 attività economiche in città, quindi stiamo parlando di una fattispecie veramente curiosa e a volte persino paradossale, ma del tutto limitata rispetto, certo, rispetto. Questo è corretto ammetterlo. Ciò non toglie che queste 800 posizioni e tutte quelle che si registreranno, noi le vogliamo valutare una per una, e l'impegno dell'amministrazione, come abbiamo rassicurato e rassicuro anche oggi, che l'intento dell'amministrazione, come già detto, è stato quello della proroga fino al 31 marzo, perché si possa valutare caso per caso, avendo in questo lavoro anche orientamenti di indirizzo da applicare in termini generalizzati. E fino, poiché l'amministrazione non ha nessuna intenzione di aprire contenziosi, e voglio ribadire, non sta facendo assolutamente un'azione vessatoria né per ragioni di cassa, queste sono tutti fumus lanciati senza riscontro. L'intento dell'amministrazione è risolvere questo problema. Benissimo. E quindi individuare. E gli 800 casi non sono tutti di pollo. Benissimo. Rosso, allora, questa è una semplificazione. Sì, no, ma il paradosso aiuta semplicemente per capire meglio i problemi, soprattutto quando si parla in voce. Il paradosso era appunto quello dello zerbino multato o del pollo arrosto scritto in bella vista in una vetrina. Allora, io ringrazio l'assessore Bottoni per il suo intervento. Finirei con Tonelli. Vi basta la proroga allora per sedervi intorno ad un tavolo e trovare insieme, come l'assessore ha ammesso, una strada, una soluzione, insomma qualcosa che possa rendere più agevole il percorso di tutti? La disponibilità dell'assessore ci fa piacere ed è importante. Devo dire, è più importante la sua disponibilità che la rigidità mostrata invece dai suoi uffici anche nel primo incontro del tavolo tecnico che si è già tenuto. Spero che nei prossimi giorni questa disponibilità si traduca in un ulteriore incontro tra il Comune di Bologna e le associazioni dei commercianti, perché bisogna trovare assolutamente un accordo per evitare che comunque 800 imprese si trovino nella situazione di dover pagare annunci che obiettivamente, come abbiamo già ampiamente detto, certo, non sono assolutamente da tassare. Benissimo, io ringrazio anche Tonelli, che dirige Ascom Bologna, in studio Laura Fagini e Laura Marchesi, in regia Fabio Cantadori, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.